Hola, hola, si trova. Ah, mi senti? Ma vai, mi senti? 1, 2, 3, prova di modulazione. Ciao tu, ciccioli. Tonino. Ora, ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, mi senti? Mi senti? Ora, mi senti? Andava, ok. Sto entrando. Tony, ci sei? Manuele. Eia, ci sei? Buonanotte, ci sei. Non mi senti? No, aspetta. Qua mi dà 445-755 cal. Allora è toccato tu, 446 era. 446, e mi dà 445 però acceso. Mettilo 446, la freccia c'è. Cioè la freccia avanti e indietro. E come faccio ad andare? Ah, con la freccetta che c'è, sale su e giù. Eia. Ma devo fare quello che scende giù? Cosa? Quello che scende giù devo fare. Se 445 devi schiacciare quella in su. Ci sei? Ah, mi da. Mi cambi solo. Ah? Il finale qual è? 5-6. Tony. 5-6 ce l'ho. Mi senti? 4-5 mi dà 7-5-6. Non ti sento. Adesso sì. Allora 5-5-6. Ma scusa, se l'abbiamo provata ed è la giusta frequenza. Ma noi, io l'ho acceso, anche io mi sto. E beh, se non è in frequenza è normale che non mi senti. Video se devo fare, dimmi la frequenza giusta. 446-081. Aspetta, devo andare avanti. Va avanti che poi piano piano ti dà la frequenza giusta. E aspetta. Basta non toccare altre cose. Noni. 446-081. Punto 081. 446-081. Aspetta. Punto 081. Ecco qua. Ci sei? Eia, vedo un po' se mi ascolti. Prova. 1, 2, 3, 4, 5. Mi senti? Sì, forte, Manuel. Mi senti? Eia, ti sento forte. Ma nel ricevitore mi ascolti bene? Sì, nel ricevitore ti sento. Ok, perfetto. Vedi che va bene. E comunque me la segni la frequenza, insomma, metti che c'è un casino. Sì, segnati la frequenza. Non si sembra sempre segnata, tutto bisogna segnare qua. Ma ci siamo chiari su canali. Ho detto, se siamo ogni giorno in questa frequenza, cosa disegni? E vabbè, bisogna sempre segnarlo comunque. E inviate di tegare le lavo dopo, sto a giocare una parte. Comunque ce l'hai accesa adesso. Certo. Invece di quando stai, ti accendi quello così ascolti se chiama qualcuno. Ciappa. Adesso mi segno anche la frequenza, così lo lascio il biglietto vicino, mandè, che accendo, se vedo che non è così, lo metto giù. Comunque mi ascolti bene, lì in quella radio. Perfetto, Manuel. Andava. Ciappa. Dai, già ci sentiamo più tardi, là. Ok, dai, che ti faccio più giù. Buonanotte, cazzo buonanotte. Giannutti Ci siamo da cucca? Ciao Tony, più tardi. Eia, ciao. Ora. Tonino, ci sei. Manuè. Oh, ciao qua. Vabbè, sono dormito ci. No, non sei dormito, dormito. Stavo scendendo in testa con questo computer, devo darlo a qualcuno che devo a mettere le mani. Per carità. Se cazzo avevo provato a sentirlo non andava più avanti. Il computer la sciascia li fa solo Luca. A me me l'ha fatto lui. C'ho cosa dirti. Lo so che le fa solo lui. Lo so. Fa lui, è anche bravo. Me l'ha sistemato lui, ti dico che funziona, è una meraviglia. KK. E tu, non sei andato da Luca? Ma dove puoi andare? Sta così bene, c'è un bel fresco, tutto. Fatto di covo, un sacco di cose, sono andati via poco fa loro, faccio un giro. Tutta la via di Furredi, tutti niente, vendi, lui. Io gli ho impostato il ricevitore, gli ho messo in cucina dove c'è il televisore, dove l'ho messo. Il ricevitore? Ma quale ricevitore? Quello che ha detto che è difficile da usare? Sì, quello di Tonino, gli ho impostato la frequenza, almeno accende e ascolta. Dove gliel'hai messo? Qua o in 27? No, qui in PMR. Sì, vabbè, se praticamente riceve e poi se vuole trasmettere va dall'altra parte. Appunto, io gliel'ho messo in cucina, quando è in cucina se l'accende almeno ascolta. Sì, ti dico, cazzo, questo ascolto, tutto il traffico che va. Voglio dire, bisogna stare attenti a noi pigni. C'è tutto il mondo da te, c'è la gente, c'è un cane. Io già, mia, adesso ho sentito a te, sto ascoltando alle 10 che c'è Giulio e Gianfranco, va vedendo dei frabegamuri. Cosa, cazzo, non si è sentito un cane in tutto il giorno? Io e chi, madonna, cazzo, ero già arrabbiato a fare la radio. Ma infatti ne vuoi goduto e si butta tutto a casa, non da goduto, no? C'è nessuno, già lo so. Sto ascoltando anche io sul 10, c'è Giulio con Gianfranco. Quindi cosa ne fai? Cioè, a consuma corrente, come ti dici tu? Ah, vai. Ma me vado da qua, ne tolgo tutto e porto tutto a casa, non lascio niente qua. Cosa, intanto, vado a salo lampado, lo rimetto dentro l'armadio. E se non so, Torino mi sembra doveva uscire stasera. Non so se è uscito, se dovevi aggucare un poco, infatti ti accompagnami e poi ti sicuri. Sì, l'ho detto anche a me stamattina che stasera dovevo andare, non so dove. Però già rientrava presto. Chi è che vuole entrare avanti? Fruscia nei bari che già ne besce Lugani. Chi so se chiede che cosa, voi già meno entrano. E allora loro si ripartono così. Vabbè, ma se vuoi entrare entra, cosa fischi? Inutile che fischi. Entra, no? Saluti, parli. Non è meglio di frusciare. E vabbè, domani è lunedì, finalmente, c'è qui cose da fare, cioè speriamo che non piova, se c'è da fare un sacco di cose. Bari a posciugare va butto domani, mi sembra di sì. Io beh, acqua in compasso non ne ha fatto oggi, una bellissima giornata fresca, si sta benissimo, c'è un leggero vento di maestrale, l'acqua l'ha fatta ieri notte, oggi niente, quindi se domani mattina rimane qua, cioè rimane così, va benissimo a me, pongo la vima. Ah, così va benissimo, cazzo a voi, così va benissimo, si sta bene. Sembra che debba tenere così, c'è un'altra perturbazione di aria calda, però penso che non sia più come prima, diciamo, dai. Però a me interessa che non piova, perché ho bisogno di fare un po' di commissioni al centro, devo andare in moto, capito? Quindi mi interessa che non piova, poi se è così nuvoloso non me ne ha fatti nulla, meglio. Sì, vabbè, se è nuvoloso andava, se non piove è peggio a circolare in moto. Non hai visto le nuove cose che hanno detto? La discoteca lì a Lido l'hanno già chiusa. So, già iniziando a Sarra, pensa a due. Poi dobbiamo circolare tutti con la mascherina anche all'aria aperta, senza quanto si chiama. Dobbiamo uscire già con la mascherina. Se dobbiamo fare passeggiate dobbiamo indossare la mascherina. Prima la dobbiamo indossare quando dobbiamo entrare nei negozi, ma la dobbiamo trattare sempre. No, Manuel, se esci da solo che sei per i fatti tuoi non c'è bisogno. Devi metterla al momento in cui ti metti in fila da qualche parte, dove c'è gente ferma. Supermercati, in fila ai supermercati, per entrare nei locali pubblici, se devi stare fuori seduto al bar, una volta ti hai preso il caffè devi tenere la mascherina anche da seduto, perché c'è gente, perché c'è assembramento, anche se ci sono le distanze c'è assembramento. Se sei camminando a rasura, bari fatti due, non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Ma è così, sì, l'ho sentito, Lido Punta Bianca, e non è discoteca insomma. Tutto va in chimi, chiuso, tutti a casa, tutto a casa, finita la stagione, capito? Però il problema sai qual è, Manuel? Che è già a Sassari il Covid, è a Sassari, perché questi, questa che è risultata positiva, chi ha frequentato, con chi era, chi c'era lì, e diventa da uno diventano due, da due diventano tre, da tre diventano quattro e così via. E c'è già la partenza, è inutile che andiamo a girare le balle. È partito e boh, è a settembre, siamo chiusi, siamo tutti a casa. Vedrai, adesso stanno già iniziando a chiudere, vedrai che a settembre faranno il boom e chiuderanno tutto, io, ma proprio tutto. Peggio Baeddi, non è vasi a entrare niente. Blindata voleva, blindata la Sardegna, non c'è niente da fare, o perlomeno per far sì che la stagione andasse almeno al 50, al 60, al 70% in porto, perdendo un minimo, ristoranti, pizzerie e alberghi, non discoteche. In discoteca non si può fare, non si può fare, non puoi mantenere distanze, non puoi mantenere la mascherina, hai capito? Perché è così, quindi peggio per loro. Io guarda, a questo punto non so più cosa fare, mi dispiace per mia figlia, perché se dovessero chiudere è un disastro totale, è un disastro totale. Spero di no, però non lo so, non lo so, non so, non so, non so. Vedrai che prima o poi qualche rivoluzione si fa, non si può andare da una così, aiuto, non si può, non si può. Proprio andremo alla, a finire alla fame proprio, se chiudono tutto, ui. Se chiudono le attività come prima, gente che si sta risollevando nel minimo, perché ancora ce n'è da fare, nel minimo si va a fondo, basta, è finito, capito? Parlano bene, io mi incazzo, ma non tanto io quanto mia moglie, quando qualcuno dice appunto è meglio morire di fame che chiudere, ma lo siete, è meglio morire di fame che chiudere, perfetto. Cazzo, è cosa a giamba, meglio morire di fame, cosa a giamba, sei sempre qui vicini, che cazzo di ragionamento è so. Infatti qualcuno dice meglio morire di fame che di Covid, sì, certo, perché loro ci hanno capito, stipendi fissi che sono pagati lo stesso, ma cazzo, un lavoratore che è autonomo cosa deve fare quando tu le chiudi l'attività? A te viene a domandare lo stipendio fisso. Ehi, se ne avranno a bizzarra, se ne avranno a bizzarra, comunque stiamo sempre andando e sempre il cazzo peggiorando, sempre peggiorando. Più stiamo andando e più stanno aumentando questo caso di queste malattie qui. In Ipirali dicono che non ti fanno più entrare. Pensa tu. Come è? Claudio, io già andavo a furare alluminio da Marcetto per Campo Mattessi. Sì, Naggio alluminio è un'altra gabituria. Ma no, mia nipote lavora all'ospedale civile di Alghero, hanno fatto rientrare a tutti dalle ferie. Tutti. C'era gente addirittura che aveva già prenotato le ferie, così, vacanza normale, tutti, da domani rientrano tutti, tutti a lavoro e tutti in tornazione, tutti, dalla alla Z, medici compresi, ce ne mancavano più del 50%, da domani si rientra tutti a lavoro, mi ha detto zio, tutti, non ce n'è ferie, ci hanno richiamato tutti immediatamente, perché anche ad Alghero la stessa cosa. Al Galeo ci sono tre casi, di cui uno è anche abbastanza serio, mi ha detto, e quindi abbiamo paura che ci sia una partenza di pandemia come l'altra volta. Spero di no, ma si suppone molto molto difficile la situazione. Diventa un casino, ma troppo critica la cosa sta diventando. Io infatti non so più che cosa fare, non so più cosa fare, perché anch'io ho degli impegni, però non posso prendere degli impegni di lavoro e poi non poterli fare, capito? Quindi adesso aspettiamo fino al 7 settembre, vediamo cosa ne salta fuori, spero che abbassino i contagi, spero che la gente capisca che veramente dobbiamo far funzionare la testa e non i piedi, e altrimenti vuol dire siamo costretti a rinchiuderci nuovamente a casa e a fare gli zingari senza soldi e senza niente. E tu credi che miglioreranno a settembre le cose? Ui, lascia perdere, va. Io nella prima serie di questa pandemia Sassi ha lavorato molto molto molto bene. Non c'era un'anima in giro, erano tutti a casa, quei pochi che uscivano per fare la spesa, guanti, mascherine, ben coperti e tutto. Una volta che ci hanno scappato, la prima tranche è successa a Napoli, è successa a Palermo, è successa da tutte le parti, assembramenti a tutto andare, feste, festini, in piazza, tutti bagendici, bentornati, ero là tanto che non ti vedevano, qui ero là. Qui sono i ragazzini, capito? Non penso che siano persone grandi. E poi il colpo di grazia l'abbiamo preso con l'apertura delle discoteche e l'ingresso di questa gente dell'Alta Italia, che ancora il focolaio c'era lì, quindi è chiaro che se l'hanno portato appresso. Poi non parliamo degli asintomatici, quindi è un casino, Manuel, credimi che è un casino. Speriamo bene. È bello, Garie. Non lo sento, Luca. È entrato prima. Non lo sento più. E così qua, e così. Siamo in un mondo pieno di merda, per carità, cazzo. L'Italia è così. L'Italia è così. Più stiamo andando e più sta diventando pesante. Siamo pesante, bro. Porca puttana, ma dimmi tu, cazzo. Una cosa che sembrava stava andando a risolversi, è tornata alla grande. Siamo a più di 1.500-1.700 di nuovo. Siamo battuti il gatto da 200, ma in pochissime settimane, in pochissimo tempo, cazzo. Sta salendo un bel, ed è un bel casino. Sì, in pochi giorni, non so quanto hanno aumentato di questo cavolo di infitti, per carità. Non lo so. Cazzo, è tutto rintanato dentro Gaza. Dove vuoi va, Manuele? Dove vuoi va? Io cerco di fare il meno assembramenti possibile, anche perché io non esco. L'unica uscita che ho fatto è quando sono andato appunto a Tonino, cioè anche tu, abbiamo fatto, montato quell'antenna, insomma, abbiamo cenato e basta, e a casa. Io non esco, non sono, anche perché ho paura di cioè non sono più un ragazzino, capito? Ho paura che frequentando altri posti, altre cose, possa cadere anch'io nel sistema. E quindi è chiaro che ti riservi. Stamattina, tutta la mattina con la mascherina, facevo commissioni, poi sono rientrato a casa, non so come è uscito. Quando mi ha chiamato Tonino ero già all'opera ai fornelli, quindi non mi muovo più. Oggi sono tutto il giorno a casa, io non sono andato da nessuna parte, cioè, cazzo vuoi fare? Io in linea di massima mi sono già abituato, da quando sono andato in pensione io non esco più, non giro più, non faccio più niente. Però cazzo, non si può morire così e ammazzare gli enti così, perché anche uno ha bisogno un po' di svago, ha bisogno di uscire, ha un paio d'ore, un'oretta, ma se ci rinchiudono è cazzo impressionante. Ti sto dicendo che vedrai che stanno già facendo il modo per tornare a chiudere tutto, vedrai che è così. E se fanno tornare questa cosa qui, come quei 2-3 mesi che eravamo chiusi, vedrai la gente come sclera, come cazzo sclera veramente. Io ci ribascio un po' Grumacchini, visto che più dell'80% delle persone che hanno creato nuovamente il focolaio della pandemia sono giovani, sono ragazzi che non hanno capito proprio niente, capito? Io ho sentito uno, ha detto a me, cosa mi fai a me? Ha detto vado 20 anni, a te cosa ti fai a chi vai 20 anni? Vabbè, infatti ce ne sono tre contagi, sono proprio 24enni, poi vediamo se non ti fa niente. Forse lo sbodone, cazzo se ne fa, si cada pizzicare o pizzicare giù a te, se c'è qualche patologia, lo prende subito. E, ma no, è patologia, non patologia, è un virus che attacca. E quando attacca, attacca, no? È nuda la va. Bisogna stare molto attenti. Bisogna stare molto, molto attenti, comunque. Vabbè, speriamo bene. Adesso, sino al 7 di settembre, l'ordinanza è questa. Per vedere proprio se si rispetta questa ordinanza. Perché se non si rispetta, allora iniziano a castagnare, iniziano a chiudere. E questa è la prova del 9. Andiamo, vediamo. Vediamo cosa succede il mese entrante. Vabbè, che il mese è già finito. Oggi ne avevamo già 30. Vediamo cosa succede. Domani è 31. Domani è 31 e agosto se n'è andato. La gente sta già rientrando. Ci sono i rientri ben organizzati. Stanno facendo anche i controlli nelle fasi di rientro da regione a regione. Quindi speriamo bene. Speriamo che la gente capisca che in questo contesto bisogna stare molto, molto attenti e seguire soprattutto le normative di legge, perché se tu non segui le normative fai di testa tua, succede un casino. Sì, ma è così. È così. L'unica è di non far entrare più a nessuno, farsi rimandare a tutti i clienti. A questa gente che sta sbarcando ogni volta e non gli dicono un cazzo, il casino che stanno combinando. Boh, dimmi tu. Vabbè. Facciano quello che vogliono, ti rispetto. Io ho la coscienza pulita in tutto e per tutto. Ho seguito tutte le normative da prima ad adesso, sto cercando di continuare a seguirle. Spero che tutti si mettano la mano sulla coscienza e capiscano che questa cosa non è un gioco, ma è un pericolo per tutti, sia giovani che anziani. Speriamo che vadano a leggere e a capire a cosa andiamo incontro, perché molta gente la prende con molta filosofia e non funziona così. Sì, già se ne avranno avvisato, già se ne avranno accorto, lui, perché cazzo, se arrivano tutta questa gente ancora, allora cazzo siamo noi guglioni, perché se fanno venire questa gente ancora, gente, che c'è mondezza, non è niente, è mondezza quella lì, che sta inquinando tutta la Sardegna, tutta l'Italia. E appartiene alla categoria dei turisti, Manuel. Se tu apri i porti, apri gli aeroporti, consenti l'apertura delle discoteche, che non c'era bisogno perché la discoteca è un divertimento, non è un servizio pubblico, e lasciarvi le pizzerie con le norme di legge come stavano facendo, i ristoranti con tutte le norme di legge, gli alberghi ben controllati e ben organizzati, io sono sicuro che non succedeva tutto sto casino. È partito tutto dalle discoteche, Emanuele, tutto dalle discoteche, sia in Alta Italia che in Bassa Italia, Centro Italia, Sud Italia e le isole, sia la Sicilia che la Sardegna. È partito tutto dalle discoteche, non era il caso di aprire questo cazzo di discoteche, non è servito a niente, è servito solo a creare problemi. Sì, infatti è partito da lì, dalle discoteche, dai pub, dai locali, notturni, tutto da lì. E va, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Io sinceramente, dall'apparenza che ho, non la vedo buona, non lo so. Cercate anche tu e Tonino, che state molto assieme, di usare la mascherina, capito? Anche in macchina, uno vicino all'altro, usate la mascherina, usatela, perché è una protezione e soprattutto lavare molto le mani e disinfettare le mani, perché è così. Io la mia paura è quella, capito? La mia paura è quella. Comunque, vediamo cosa succede, dai. E lava la brittella, soprattutto. Sì, la brittella già si lava da sola. Il problema è che si lava nero zaibedo, la gente. E comprendi che perché veramente è un grande pericolo non rispettare le normative di legge. Sì, vai che settembre è tutto chiuso, fidati. Vabbè, faremo la fame, dove ti dico. Io sono arrivato, Lu. Io sono arrivato, la mia unica preoccupazione è l'aria, lo sai. L'aria lavora nel settore bar e se chiudono è veramente un casino. Veramente un casino, perché non bisogna entrarvi, c'è solo investimento e senza entrate. Ed è veramente un casino. Io, in linea di massima, sciogli rivido. Io me la ratino Matteschi, me ne sto a casa, ci abbiglia il culo, però io penso anche agli altri, Luca, non sono egoista. Io penso a chi deve lavorare, penso a chi ha un'attività e deve pagare tutte le tasse, l'affitto, la gestione, il materiale, capito? Tutto ciò che serve per poter lavorare. E quella gente va veramente a fondo. E se ho convinto che se questa cosa dura, che anche uno fa la fine brutta, perché qualcuno può arrivare anche a ammazzarsi per una cosa del genere, pur di non fare brutte figure, hai capito? Lo so, purtroppo la gente è ignorante, ma io la colpa la do a chi ha fatto entrare le persone qua, a scopo di far portare i soldi qua, vedi cosa succede, invece si arrabbiano in tutto, non succedeva niente, noi eravamo praticamente a posto, invece, per colpa di quelli che hanno fatto entrare queste merde dentro, e poi questi extracomunitari che arrivano da fuori, eccetera, eccetera, va a pacare da pucci pucci. Lo so. Poi sono andati a criticare la Sardegna, capite? Che sono venuti in Sardegna e sono preso il Covid. Cazzo, ne hai regato duro il Covid, ma cosa ci dite? E questi noi avevamo contagi zero. Noi abbiamo fatto giugno, luglio e agosto a contagi zero. Nel senso agosto, da quando è iniziato, quindi circa una quindicina di giorni fa, prima di fare agosto praticamente, è iniziato tutto il casino. Perciò noi eravamo a contagi zero, perché le statistiche parlavano di quello. Eravamo proprio a contagi zero. Invece siamo là, non solo noi contagiati, ma avevamo contagiato Brurastri. Quindi un bel casino. Vabbè, cambiamo discorso perché altrimenti mi viene la paranoia qua. Vabbè, se vuoi fare. Tanto poco fa non ti ho risposto che mi stavo facendo la barba, che poi mi sono anche docciato, dai. Così mi sono disinfettato anche. E io c'ho il gel, c'ho tutto quello che serve, c'ho mascherina nella moto con guanti lattice, c'ho mascherina in macchina con guanti lattice, c'ho gubbieno, tutto, non ho problemi di nulla, però adesso mi limito anch'io nuovamente a stare un po' di più a casa e ciccia, si abbiglia in culo, rubare le uscite, non me ne affutti nulla, io voglio, fino al 7 settembre voglio capire cosa sta succedendo. Avanti Manuele. È così. Il casino, sono i turisti che sono arrivati. Cazzo, già ne so gli ontibog, infatti. Sbarcavano da Dugnarugo. E che è la colpa è la nostra, ma si rabbiano il culo, dei turisti. Sembra che ci sia gente che abbia anche, che sia entrato in Sardegna, sbarcato in Sardegna via mare con autocertificazioni false, capito? Con autocertificazioni false, quindi immaginati tu, andiamo a Rividi pur di venire in Sardegna con un'autocertificazione falsa, ma va, dimmi tu. Cazzo, ma scusa, ma quando imbarcano non li controllano questi qui? Ma non è, dici il napoletano giuro è forte a fare le cose, ma tu sai cosa, quanto è facile, se tu hai la febbre, e prima di scendere dalla nave ti prendi un attacco epirina, la febbre si abbassa, quando scendi te la controlla e non ne hai capito, Emanuele? Ma quello te la dovrebbe segnare lo stesso, anche se lascia perdere l'aspirina per abbassare la febbre. Quel macchinario che c'hanno, cos'è, un termometro, cosa cavolo è, ti misurano, un poco ti misurano dal good, dalla fronte, boh. Termometro digitale, Emanuele, te lo metto nella fronte, hai indicato la biglia, la temperatura, la biglia sotto lo braccio, la biglia alla fronte, cos'è, non c'entra niente, quello è un termometro. Se tu in nave, durante il percorso da Genova a Porto Torres, avevi 40 di febbre, ok, nell'arco delle 6 ore tu prendi una tachipirina prima che la nave arrivi in porto, la febbre ti abbassa a 36, 36 e mezzo, 37, non è, è una temperatura normale, corporea, capito? E quindi ti fanno sbarcare. Se poi tu c'hai un'autocertificazione, perché di autocertificazione si parla, dove dice che hai fatto il tampone entro le 72 ore, ok, e con lo scanner vai a correggerlo che l'hai fatto, per dire la data è 26-15-8, ok, e sei venuto in Sardegna il 25, e ci metti anziché 15, ci metti 25, a chi si può fare, Manuele, si può fare tutto. Oggi col sistema del computer si può fare qualsiasi cosa e c'è gente che ha contraffatto il certificato, capito? Perché l'ha detto la televisione e li stanno cercando e sono indagati, ma indagati poi quelli vanno a finire in galera. Ui, cosa andare in galera? Cazzo, basta pagare avvocati, cosa in galera? Che se non finire mai in galera, ui. In galera si buono ad esempio la gente che non vende e non visce. Quella è truffa e concussione in strage, lo sai cosa vuol dire? Ah, che tu con quel certificato stai andando a ammazzare altra gente, perché sei arrivato in Sardegna positivo, in Sardegna, in Sicilia, in Lombardia, dove cazzo sei andato? Sei arrivato positivo e hai contagiato altre persone, e magari cazzo qualche di una di chi si è morta a Buru, quindi è un casino, è un casino e basta, è un casino. Vabbè, comunque, ti ripeto, io mi rimango a casa, non me ne fotti nuda, uscirò solo per le cose essenziali che veramente servono, altrimenti non mi interessa, non me ne fotti proprio nuda, io voglio stare tranquillo e sereno, perché voglio continuare a vivere, non voglio soprattutto avere problemi con nessuno, poi, l'altro, voi ti amichissimo che li biazzi. Appunto, forse anche se che ti piace, ma si sciolgano nel paese reddi, poi che cazzo arrivano e contagiano uno all'altro, l'altro ancora, tu cazzo sei appentanato in casa, che non sei andato da luogo, che chio, e dice che cazzo sono sbarcati, che cazzo hanno contaminato la Sardegna, che poi noi eravamo proprio zero quasi, che non veniva nessun contagio, ah beh, dava a torra, tanto veniva. Ce ne sono 40 del billionaire, poi c'è quello di Baia Sardinia, non so quanti ce n'è. Arzachena è pieno, Manuele, Arzachena, Palau e la Maddalena è piena, la Costa Smeralda è piena. Adesso il fiore all'occhiello a Platamona e queste due ragazze che lavoravano lì al Lido di Punta Bianca sono tra l'altro sassaresi, quindi ce l'abbiamo a Sassari città. Quindi adesso bisogna vedere cosa succede. Adesso stanno aspettando a fare il tampone anche a tutti quelli che hanno frequentato queste persone. Si sono affiancate a queste persone, sono avvicinate al Lido di Punta Bianca. Tant'è vero che hanno isolato quella zona, l'hanno isolata, capito? Quindi, niente male lì, dubbio, è isolata quella zona. È tutto transennato, perciò. Vabbè, bisogna che ti dica, io rimango sui miei passi, chiamiamoli così, poi ti ripeto, gli altri, forse Anneghiscio Gribiazzi, ci sono stati più di 7.000 disdette, capito? Settembrinimi, quelli che fanno le vacanze a settembre. Più di 7.000 disdette ci sono state negli alberghi della Sardegna, alberghi e villaggi, più di 7.000 disdette, cioè praticamente non vivono più nessuno. Sì, infatti, non mi viene più nessuno, no. Non ci viene più nessuno, no. Io ho messo che canno, manco un bagno mi ha giovato. In spiaggia non so come è andata una voce, penso a due. Canto mentre se va a me andare in spiaggia. Sono passato un paio di volte lungomare di Alghero, cazzo di lato, tutti attaccati, manco uno con la mascherina, penso a due. Nei locali, dove si mettono a suonare all'aperto, manco uno. Sì, è vero, di Alghero è una vergogna. Io c'ho tutti i miei, sono andato una volta prima di Ferragosto a salutare, a fare, e poi me ne sono rientrato a casa, basta. L'aniaccio, vieni, sì, domani a Mazzano poi vengo io. Cazzo, che casino che c'è lì, per carità, allucinante. No, vabbè, pazienza, aspettiamo cosa succede, poi si vedrà. Ok, Manuel, mi allontano un attimo, dai, che è arrivata mia figlia. Ok, voglio capire un paio di cosette, poi magari ci sentiamo dopo. Va bene, già tutto acceso qua. Ok, a dopo, là. Ci sentiamo più tardi. Ciao anche a Luca, a dopo.